notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Alluvione a Pescara, una donna è morta in un sottopassaggio, situazione difficile anche nelle Marche, un'auto sarebbe stata investita da una frana in provincia di Ascoli Piceno. Prato, il giorno dopo l'incendio in fabbrica, le 7 vittime, oltre 4.000 le aziende cinesi della zona, gran parte nel tessile, solo 100 i controlli nell'ultimo anno. Ancora la deriva, un barcone con 100 migranti al largo delle coste calabresi, la guardia costiera riesce a fornire viveri e salvagente, il peschereccio potrebbe ribaltarsi, sarebbe iniziato il trasbordo, gli aggiornamenti tra poco. Qualità della vita, nella classifica annuale del Sole 24 Ore, Trento scavalca Bolzano ed è prima, seguono Bologna, Belluno e Siena, ultima Napoli e male anche Reggio Calabria e Palermo. Ucraina, i manifestanti a favore dell'accordo con Bruxelles tornano in piazza. Ieri 300 feriti negli scontri, bloccata questa mattina la sede del governo. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Iniziamo dunque dalla situazione del maltempo, più che dalla situazione del maltempo in sé, da quello che sta provocando il maltempo. E vediamo di fare un punto. Nel Tarantino l'esondazione del fiume Lato ha provocato allagamenti e l'interruzione di alcune strade nel territorio di Castellaneta Marina, interdetta la circolazione alle auto in alcune zone, la piena ha lambito anche alcune villette e inondato i campi. Nelle Marche potrebbero esserci delle persone a bordo di un'auto che è stata travolta poco fa da una frana lungo una statale in provincia di Ascoli Piceno e sono esondati anche dei fiumi in provincia di Ferrara e alcune case sono state evacuate. In Basilicata strade allagate, circolazione ferroviaria difficile, campi allagati e scuole chiuse in molti comuni. Ieri sono state sgomberate 200 persone. Noi però iniziamo a fare un punto su tutto questo e sulla situazione con Paola Pagliara, che è responsabile del settore idrogeologico della Protezione Civile, intervistata da Adriana Fracchia. Ci sono maggiori criticità in regione Basilicata per effetto delle precipitazioni delle scorse 48 ore e nella regione Puglia, soprattutto nella parte centrale, provincia Bari e provincia di Foggia. Problematiche ci sono anche in Abruzzo e in Molise, che in queste ore sono state colpite maggiormente. Stiamo parlando comunque nelle ultime 48 ore di fenomeni importanti, soprattutto in Basilicata e Puglia, dove ha piovuto più di 200 mm d'acqua, quindi comunque valori importanti che hanno messo in crisi tutti i corsi d'acqua della regione Basilicata, quindi l'Agri, il Sinni, il Zarvento, il Bradano e anche della regione Puglia. Problemi ci sono in questo momento in Abruzzo, dove nelle ultime ore è stata l'area più colpita e quindi ha messo in crisi anche fiumi d'acqua tipo il Pescara, eccetera. Nelle prossime ore prevediamo che comunque ancora in queste zone, quindi ancora Basilicata, Puglia, Abruzzo, Molise e in maniera più limitata la Sardegna orientale ci possano essere un'evoluzione stazionaria o in leggero peggioramento e poi ci sarà un momento di stadi, ma domani purtroppo ancora precipitazioni di nuovo in Sicilia e Calabria, quindi è una fase in evoluzione che teniamo sotto monitoraggio e che non sembra esaurirsi prima di mercoledì. Luigi Alboremascia, sindaco di Pescara, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Qual è la situazione? Ah, guardi, la situazione drammatica per la preoccupazione relativa ai corsi d'acqua e al pericolo di esondazione, peraltro già un torrente è esondato questa mattina e siamo stati costretti ad evacuare una zona residenziale. Attualmente tutto è sotto controllo, ma è chiaro che tutto è legato anche al fattore climatico e a previsioni del tempo che ormai sono talmente aleatorie, sono talmente difficili da interpretare che questo rende impossibile anche qualunque tipo di programmazione, perché la variabilità del tempo è tale che anche a distanza di un chilometro e mezzo si verificano condizioni diverse. Questo è il dato di fatto. Avevate ricevuto un'allerta dalla Protezione Civile? Sì, avevamo ricevuto l'allerta, eravamo già pronti da alcuni giorni, ma guardi, questa situazione perdura da circa 3 settimane con piccoli intervalli e sprazzi magari di tregua sulla pioggia, ma ormai sono 3 settimane che insieme ad altre regioni siamo nell'occhio del ciclone. È chiaro che poi questa situazione, man mano che passa il tempo, non può che aggravare soprattutto la situazione dei fiumi, e in più purtroppo abbiamo anche in corso una tragedia, perché in un sottopasso ferroviario questa mattina, alle prime ore dell'alba, non è ancora assolutamente certo, ma tutto lo rende probabile, purtroppo una signora ha perso la vita nella propria auto, annegata in un sottopasso ferroviario. Sindaco, in questi casi non lanciate un'allerta anche per i sottopassi, perché questo è un fatto che purtroppo... I sottopassi sono stati transennati, noi abbiamo aperto il centro operativo comunale alle 4 di questa mattina e i sottopassi sono stati transennati dalle 4 in poi. Questa vicenda sembra essere successa alle 5.30, però questo sarà poi oggetto di accertamento, e le posso garantire che tutti i sindaci e tutte le amministrazioni fanno tutto quanto ormai è possibile, avendo anche dei meccanismi che purtroppo per quello che sta accadendo e per i cambiamenti climatici degli ultimi tempi sono situazioni di fronte alle quali c'è una preparazione assoluta, non ci facciamo certo trovare impreparati. Noi abbiamo centinaia di volontari, abbiamo un piano di protezione civile, poi ovviamente ci sono tante variabili e tanti meccanismi che possono andare momentaneamente fuori controllo, ma io le assicuro che molti altri invece sono sotto controllo. Le posso dire per esempio che nella zona sud della città oggi c'è stato un blackout elettrico, e questo è andato ad incidere sulla capacità dei meccanismi di sollevamento dell'acqua, quindi di aspirazione dell'acqua, che fanno parte di elementi strutturali che sono azionati da energia elettrica, e questo naturalmente provoca allagamenti, però sa, gli allagamenti sono superabili, il problema è l'incolumità delle persone. Grazie a Luigi, grazie. Albore Mascia, sindaco buona di Pescara, giornata. Buona giornata e buon lavoro, naturalmente sarà una giornata complessa, immaginiamo. Intanto arriva una buona notizia su quello che vi abbiamo raccontato poco fa dell'auto travolta da una frana a Rocca Fluvione, siamo in provincia di Ascoli Piceno, ebbene sono tutti salvi e in buona salute gli occupanti della vettura. Andiamo a Prato per l'incendio nella fabbrica dormitorio dove 7 lavoratori cinesi sono rimasti uccisi. Avremo molti approfondimenti in questa edizione, sentiremo anche il sindacato e un bel racconto della nostra Valentina Furlanetto, che ha sentito sia l'ASL che l'INAIL. Però andiamo intanto alla cronaca, Ubaldo Cianciulli, la cronaca di queste ore, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno. Allora, dicevamo, una tragedia annunciata nella ditta dove lavoravano, vivevano, dormivano e hanno anche trovato la morte. L'incendio scoppiato ieri mattina per cause ancora da accertare ha distrutto il capannone di circa 1000 metri quadri. Al pian terreno c'era la ditta Teresa Moda e sopra il soppalco, il dormitorio con cellette di 2-3 metri quadri divise da cartongesso. In pochi minuti tutto ha preso fuoco, il forte vento ha alimentato le fiamme. I più fortunati sono riusciti a mettersi in salvo, ma per 7 di loro non c'è stato nulla da fare. Altri 2 cinesi sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni per le stesse ustioni che hanno riportato. L'incendio potrebbe essere stato innescato da un cortocircuito, un mozzicone di sigaretta o una stufa elettrica malfunzionante. L'inchiesta per omicidio colposo plurimo affidata al sostituto procuratore Lorenzo Gestri dovrà riconoscere le responsabilità di questa morte. Intanto prosegue anche stamani il lavoro dei vigili del fuoco che stanno liberando l'area interessata dall'incendio e dai detriti. Ancora da decidere la data del lutto cittadino e le modalità dei funerali. In giornata sindaco e prefetto dovrebbero definire le 2 questioni ancora aperte. Ed è tutto, lì nello studio. Grazie Ubaldo, e come si diceva ci torneremo tra poco. La politica adesso, ma iniziando dalla politica economica e il pasticcio dell'IMU. Numeri ancora da definire per quella che viene già chiamata la stangatina della mini IMU, che a meno di cambiamenti graverà sui proprietari di case nei comuni che hanno deliberato l'aumento dell'aliquota base del 4 per 1000, tra questi Milano. 33 euro medi secondo la UIL, fino a 104 nelle situazioni più sfavorevoli secondo la CGA di Mestre. Un pasticcio insomma che agita i partiti della maggioranza. Cooper, l'OPD, attacca direttamente Letta invitandola a chiarire in Parlamento. Il nuovo centrodestra accelera per una soluzione dopo aver rivendicato il taglio dell'IMU. Dall'opposizione Gasparri, Forza Italia parla di grande imbroglio servito per Grillo, il governo si è perso dietro ad IMU, ICI, IUC. In realtà a livello di risorse cancellare la mini IMU non costa più di tanto, circa 200 milioni di euro, è più un problema tecnico essendosi già chiuso il 30 novembre il termine per le delibere comunali. Tutti guardano allora al ministro Saccomanni da oggi negli Stati Uniti perché trovi la soluzione tirando fuori Palazzo Chigi da una brutta figura. Una via d'uscita sembrerebbe quella di utilizzare gli acconti IVA. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E veniamo alla situazione del barcone alla deriva al largo delle coste calabresi. Da quel che apprendiamo dalle agenzie è iniziato il trasbordo dei migranti. Ne chiediamo conferma al comandante Filippo Marini, portavoce della Guardia Costiera, che è in linea con noi. Comandante, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Buone notizie, il trasbordo è terminato. Le due motovedette della Guardia Costiera, coordinate a livello locale dalla fregata della Marina Militare Italiana, nave Grecale, hanno affiancato il peschereccio e hanno operato il trasbordo di tutti i mezzi, di tutte le persone a bordo. I primi ad essere accolti sono state donne e bambini. Sono 121 in tutto e stanno tutti sulle motovedette dove stanno ricevendo le prime forme di assistenza. Ha già notizie sulle loro condizioni, comandante? Perché immagino che dopo delle notti passate in quelle condizioni non stiano bene, evidentemente. Sicuramente il mare agitato ha particolarmente provato queste persone. Ora avremo dei maggiori dettagli nei minuti successivi, appena i medici visiteranno queste persone, però quello che preme dire, insomma, che sono tutti salvi. Sono state complicatissime queste operazioni di soccorso, ma sono terminate e tutti sono salvi. Almeno queste sono tutte le informazioni che io ho al momento, 121 persone. Grazie, la ringrazio comandante Filippo Marini, portavoce della Guardia Costiera, per essere stato con noi e per averci dato queste notizie in diretta. Abbiamo parlato della politica economica, adesso veniamo alla politica vera e propria, alla situazione della stabilità del governo, a come vanno le cose da questo punto di vista, allo scontro tra Renzi ed Alfano, alle prospettive che si aprono. Elisabetta Fiorito, ciao, buongiorno. Non ce l'abbiamo, Elisabetta Fiorito. Veniamo allora a parlare di primarie. Parliamo proprio di primarie. Abbiamo deciso di fare un punto sul come, sul quando si vota e quali sono le attese. Giovanni Cuperlo, Matteo Renzi, Giuseppe Civati. Un unico confronto TV, tre candidati, e questa volta sembra essere proprio la volta di Matteo Renzi. Forse è per questo che l'unico confronto televisivo ha registrato molti meno spettatori di quello di un anno fa, che si aggiudicò Bersani. Oggi, che sembra sia giunto davvero il momento del sindaco di Firenze, tutto si giocherà quindi sui numeri di questa vittoria. Se votano tra 1.700.000 e 2 milioni di persone, sarebbe un successo, dicono i politologi. Certi che non si toccheranno più i 3.200.000 di un anno fa. Saremo a vedere. Davide Zoggia, responsabile organizzazione PD, è certo di raggiungere quota 2 milioni e rivendica lo snellimento delle procedure. Tornano a votare, e questa è una novità importante, i sedicenni, tutti però non iscritti a partito, con l'obbligo di registrazione. Individuare il seggio è facile, basta collegarsi al sito delle primarie e indicare la propria sezione elettorale. Sarà così possibile conoscere il gazebo più vicino. Se si è fuori sede, basta andare in una sezione. Se non si è iscritti al PD, appunto, bisogna registrarsi e apporre la firma in calce all'albo dei sostenitori e della carta dei valori del partito. Si può farlo online o direttamente al seggio, facendo però in questo caso una doppia coda. Insieme alla registrazione occorre un versamento di 2 euro, 2,50 euro con registrazione via internet. Poi basta andare a votare con un documento d'identità valido. Anna Rita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come si diceva, il collegamento che ci è sfuggito prima è quello con Elisabetta Fiorito per fare il punto su come vanno le cose all'interno della maggioranza. Buongiorno Elisabetta, ciao. Buongiorno da Montecitorio. Matteo Renzi continua a mettere fuoco sul futuro operato di governo, mentre il premier Enrico Letta si prepara nel pomeriggio a salire al Quirinale. Il sindaco di Firenze promette un taglio di un miliardo sui costi della politica, un gigantesco piano per il lavoro. Queste le priorità se vincerà le primarie del PD di domenica. Intanto ancora eco sugli scontri di ieri, lo ricordiamo, scontri tra Renzi e Alfano. Il vice premier questa mattina invita Renzi a non tirare troppo la corda e a decidere se assumersi la responsabilità di far cadere un governo diretto dal premier del suo partito. E Renzi replica: chi vota per me l'8 dicembre esige un'Italia che cambia verso impegni precisi, per il PD è la volta buona. Letta, ricordiamo, salirà al Quirinale per definire con il capo dello Stato Giorgio Napolitano tempi e modi del passaggio parlamentare dopo l'uscita di Forza Italia dalla maggioranza. Il premier è contrario a dimissioni formali chieste invece dal partito di Berlusconi, favorevole invece Letta ad una fiducia dopo l'8 dicembre, proprio per fare i conti con il nuovo segretario del suo partito. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. E a chi ci stimola e ci dice ma il VD di ieri, ce lo scrivete via SMS, non è una notizia? Sì, è una notizia, ecco il servizio. L'orgoglio dell'antipolitica ad andare in scena anche nel terzo V-Day. Dalla sua Genova, Beppe Grillo rivendica la natura populista del Movimento 5 Stelle e spara a zero contro il Colle e contro i partiti. Chiederemo l'impeachment di Napolitano, fa sapere l'ex comico, che accusa il capo dello Stato di essere andato contro la Costituzione. Si è riunito di notte per fare le larghe intese e si è raddoppiato la carriera, attacca il leader dei 5 Stelle, pesante anche il suo affondo contro i politici, vigliacchi ai quali daremo l'estrema unzione, dice Grillo, che forte del pronunciamento della Corte dei Conti, chiede ai partiti di restituire i 2,7 miliardi di finanziamenti pubblici incassati dopo il referendum. Dal palco del V-Day il leader dei 5 Stelle rilancia poi i temi cari al suo movimento: l'acqua pubblica, l'energia pulita, il lavoro, il reddito di cittadinanza, per il quale dice le risorse ci sono, e soprattutto l'uscita dall'euro, sulla quale annuncia un referendum. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Viabilità, ci ritroviamo tra un attimo, parleremo di Ucraina e poi di calcio. A tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Alluvione a Pescara, una donna muore in un sottopassaggio, situazione difficile anche nelle Marche e nel Tarantino. Prato, il giorno dopo l'incendio in fabbriche, le vittime, 4.000 le aziende cinesi della zona, gran parte nel tessile, solo poche decine i controlli nell'ultimo anno. Sono stati salvati i 121 migranti che erano alla deriva da due giorni a largo delle coste calabresi, la guardia costiera era già riuscita a fornire viveri e salvagente. Qualità della vita nella classifica annuale del Sole 24 Ore: Trento scavalca Bolzano ed è prima in classifica, seguono Bologna, Belluno e Siena, ultima Napoli e male anche Reggio Calabria e Palermo. Veniamo all'Ucraina adesso, ma mi dicono che non abbiamo il collegamento pronto e quindi facciamo così, iniziamo a parlare di calcio e lo facciamo con un po' di musica. Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. E non è che abbiano fatto proprio oh i bambini ieri, Dario Ricci, eh? No, tecnicamente molti dei bambini che hanno assiepato le curve di Juventus Udinese hanno fatto merda, ma è semplicemente la parola che gridavano in coro ogni qualvolta il portiere dell'Udinese Burkic faceva un rinvio da fondo campo. Insomma, l'esperimento, perché di tal cosa si tratta, di riempire le curve chiuse agli ultra dal giudice sportivo per i cori discriminatori nei confronti dei tifosi partenopei, è riuscito nella gran parte e nella maggioranza dei casi, ma insomma di minoranza minorenne dobbiamo parlare, perché questi cori ci sono stati comunque, anche qualche coro chi saltella interista è, che per carità, insomma, ci siamo capiti, c'è di peggio. però è anche il segno che molto si deve fare su questa strada, no, Simone? Tali padri, tali figli, insomma. Sì, e tali anche campioni, perché per esempio stigmatizzo, se mi è concesso farlo, anche dichiarazioni come quelle fatte dal difensore della Juventus, della nazionale Bonucci, che ha detto: noi scendiamo in campo con l'entusiasmo di questi 10.000 bambini, ma ci sarebbe da discutere, sappiamo che da casa c'è chi tifa più di loro. Allora, insomma, un messaggio un po' ambiguo, quanto un po' ambiguo, quanto non strizzare l'occhio, quantomeno ambiguo. Ultima cosa che ti voglio chiedere, brevemente, Napoli stasera, ultima occasione. Secondo me sì, secondo me l'ultima possibilità di agganciare il treno al nuovo scudetto. Manca ancora tanto, mi dirai, sì, ma il Napoli adesso ha bisogno dei 3 punti contro la Lazio all'Olimpico, la Lazio che vedremo se sarà ancora allenata da Petkovic, così dovrebbe essere da quello che ha detto lui, eh. Grazie Dario Ricci, e poi di tutto questo si tornerà a parlare ovviamente in tutti i convocati. Noi veniamo all'Ucraina, alla situazione in Ucraina, dove si continua a stare in piazza in favore degli accordi con l'Unione Europea. Antonella Scott del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Qual è la situazione? Beh, queste sono davvero ore decisive a Kiev, perché la crisi accesa dal confronto tra la Russia e l'Unione Europea sul destino dell'Ucraina, contesa tra Est e Ovest, è sfociata e diventata ora lotta aperta tra il presidente Yanukovych e la piazza. E questa mattina, dopo gli scontri di sabato e domenica, sono tornate nella grande piazza dell'Indipendenza migliaia di persone, ora bloccano anche l'accesso agli edifici governativi, chiedono le dimissioni del governo e del presidente e non intendono andarsene finché non le avranno ottenute. Però è difficile dire fin dove potrà arrivare questa protesta, perché l'opposizione è divisa, i suoi leader non sono ancora emersi come figure di riferimento, di peso, come ai tempi della rivoluzione arancione con Yulia Tymoshenko, leader capaci di raccogliere il malumore di questa parte della popolazione che si sente tradita dalla scelta di Yanukovych di sospendere l'accordo di associazione all'Unione Europea. Questa mattina un tavolo di conciliazione con le autorità è fallito, e per questi leader, che sono dal campione di boxe Klitschko ad Arseniy Yatsenyuk, che ha preso il posto di Yulia Tymoshenko, un altro grande rischio è appunto la deriva violenta della protesta, come si è visto ieri. Non hanno il controllo su tutti i gruppi, e i più radicali domenica hanno attaccato questi Birkut, gli uomini delle forze speciali ucraine. Questa sera, in Piazza Indipendenza è in programma un concerto. In questo clima è altissimo il rischio che la manifestazione degeneri di nuovo in battaglia. Grazie Antonella Scott per questi aggiornamenti. Io saluto Alessio Gramolati, segretario generale della CGIL Toscana. Salve, buongiorno e benvenuto. Buongiorno e buongiorno ai radioascoltatori. Ovviamente con lei vogliamo parlare di quello che è successo a Prato, però le chiedo di rimanere un attimo in ascolto e le faccio sentire il servizio che ha preparato la nostra Valentina Furlanetto, sentendo tra l'altro responsabili dell'INAIL e dell'ASL. Innanzitutto i numeri che forse possono spiegare un po' il fenomeno. Su 6.500 imprese tessili a Prato, 3.500 sono cinesi, 2 miliardi di euro all'anno il giro d'affari, di cui 1 miliardo in nero. Almeno 30.000 lavoratori provenienti dal paese del dragone, di questi solo 12.000 hanno un contratto di lavoro, aziende che aprono e chiudono a ritmo vertiginoso. E i controlli dove sono? Lo abbiamo chiesto al direttore INAIL Toscana, Bruno Dinolfi. L'accertamento porta a registrare il 99% di aziende con lavoratori in nero o irregolari. Per quanto riguarda il recupero delle somme, il recupero è praticamente nullo. Su questa fabbrica avevate fatto un controllo? Questo sinceramente non glielo so dire. È possibile che sia stata verificata anche quell'azienda. E nonostante questo? Perché non sia stata poi chiusa, non voglio fare un discorso banale, ma evidentemente subentrano poi altre competenze. Insomma. Di ordine pubblico, di sicurezza, questo genere di competenze. Cioè non siamo davanti a irregolarità, ma proprio a una situazione, un sistema organizzato di criminalità, di organizzazione mafiosa, diciamo, italo-cinese. Della comunità cinese specificamente. Però sembra di parlare di un territorio extraterritoriale. Credo che sia una definizione abbastanza rispondente alla realtà. Con l'INAIL anche l'ASL è responsabile dei controlli. Aldo Sedi, direttore del Dipartimento Prevenzione dell'ASL di Prato. Su questo non c'erano stati controlli, diciamo, noi grosso modo negli ultimi 3 anni abbiamo fatto come Dipartimento circa 600 controlli. Le irregolarità sono mediamente sul 30% rispetto ai controlli. Sono drammatiche dal punto di vista igienico. Cucine, refettori, dormitori, è proprio questa copresenza di attività che non è neanche consentita dalla norma, no? Perché insomma, se sono ambienti di lavoro sono ambienti di lavoro, se sono ambienti di vita valgono altre regole, insomma, ecco. E alle vostre così segnalazioni fanno seguito delle chiusure poi? Sì, fanno seguito delle chiusure, però la realtà è così complessa che poi magari l'azienda si trasferisce in altri locali, hai capito? Intanto una maxi inchiesta della Procura antimafia ipotizza il riciclaggio via money transfer di quasi 5 miliardi di euro, opera di un'organizzazione mafiosa italo-cinese, a cittadini cinesi che non potevano permetterselo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora, Gramolati, Alessio Gramolati, segretario generale toscana della CGIL. Allora, è evidente dal racconto della nostra Valentina Furlanetto che non c'è uno Stato. Perfino il direttore dell'INAIL dice siamo in un ambito di quasi extraterritorialità. E però molti dicono anche al sindacato, signori, voi su questo non vi siete fatti sentire abbastanza, siete stati assenti. Ma io penso che questa vicenda è stata... ha bisogno di essere chiamata con il nome giusto e va, come si può dire, ridefinita nei fatti. Io penso che si stia innanzitutto commentando una strage, perché la dimensione delle vittime è tale da non poterla chiamare diversamente, e vorrei ricordare che questa è una strage di lavoratori e di lavoratori sfruttati. Ora, sicuramente di fronte a un fatto come questo c'è una sconfitta di tutti, sarebbe però un po' singolare pensare che le responsabilità sono uguali fra tutti, perché c'è qualcuno che questi lavoratori li sfrutta, qualcuno che cerca di dare tutela. Noi possiamo essere stati deboli, ma assolutamente mai complici. E in quel territorio c'è un lavoro che dura da anni per cercare di difendere queste persone. È un lavoro difficile, perché si immagina dove non entra l'autorità pubblica se può entrare un sindacato. Noi nel 2012 abbiamo fatto 3 vertenze in aziende di questa natura. Una ha riguardato un lavoratore italiano che lavorava per aziende cinesi e 2 riguardavano lavoratori cinesi. Queste persone chiedevano che gli fosse dato il giusto compenso. Una volta riscosso sono però dovute rientrare in Cina, perché lei sa che c'è una legge per la quale se uno perde il lavoro, e queste persone hanno immediatamente perso il lavoro, dopo 6 mesi diventano clandestini, quindi non hanno possibilità di denunciare. Noi negli anni abbiamo fatto più volte appello, l'abbiamo chiesto anche a Maroni, che chi denunciava, come era successo in Puglia, fosse messo nelle condizioni di non essere espulso, perché è evidente che così si crea un sistema criminogeno dove le vittime finiscano per essere quelle che pagano in prima persona. Purtroppo non c'è stata data risposta. Allora, dato che mi sembra appunto che lo Stato sia abbastanza inchiodato alle sue responsabilità da come si sono svolti i fatti e da quello che succede, dallo stato della situazione, mi perdoni se insisto su quello che mi diceva prima. C'è stata quindi una certa debolezza da parte del sindacato anche solo nel denunciare questa situazione, Gramolati? Allora, sulla denuncia mi permetto di contraddirla, nel senso che non corrisponde ai fatti. Sulla debolezza assolutamente sì. Vede, noi sono 10 anni da quando questo fenomeno sostanzialmente è esploso, che nelle aziende che fanno capo, diciamo così, a questo tipo di filiera, chiediamo che vengano fatti accordi per la tracciabilità. Abbiamo trovato interlocutori sensibili, parlo di Gucci. Penso in queste circostanze si debbano fare anche dei nomi, non parlare in astratto. E abbiamo trovato altre filiere e altri capofila assolutamente non sensibili, che non hanno consentito accordi che evitassero questo stato di situazione. E i nomi qua? I nomi sono di le altre importanti griffe. Alcune hanno scelto di non lavorare con i cinesi, mi riferisco a tutte le filiere francesi, altre italiane, sull'emozione della vicenda si sono rese disponibili a qualche accordo, ma poi non seguono pedissequamente quello che deve essere fatto. Ci faccia i nomi di queste, Gramolati. Guardi, tutti i grandi gruppi che non hanno filiere, tracciabilità nelle filiere, sono in qualche maniera protagoniste di un sistema che ha queste caratteristiche. Le faccio un altro esempio. Perché breve, appunto, che dobbiamo chiudere. Sì, assolutamente breve. La possibilità che queste realtà rispondessero in solido degli abusi commessi sui lavoratori è una nostra proposta, anche su questa non abbiamo avuto risposta. Come vede sono molte le iniziative, e però in qualche circostanza siamo stati inascoltati. Siamo stati anche inascoltati, lei ha dato un servizio per quanto concerne la direzione territoriale del lavoro e il lavoro dei medici e dei tecnici. Forse ci sono due dati che i direttori si sono dimenticati di raccontare. Sì, dica. Sa quanti sono gli ispettori INAIL su Prato? Uno. Esattamente. Sa quanti sono i tecnici che fanno il servizio prevenzione, igiene e sicurezza? Sono uno ogni 7.000 lavoratori. Queste sono le circostanze. Io non penso a leggi speciali, penso dobbiamo assumere tutti di fronte a una tragedia come questa, non attraverso una polemica, il fatto che un'integrazione senza repressione non funziona, ma chi ha sostenuto l'idea della repressione senza integrazione deve prendere atto che anche quel modello non ha fermato le vittime, le stragi. Grazie Gramolati, Alessio Gramolati. Grazie, segretario generale della CGIL Toscana. Noi ci fermiamo, una pausa, ci ritroviamo subito dopo con l'inchiesta di Daniele Biacchessi. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Alluvione a Pescara, una donna è morta in un sottopassaggio, timore per le piogge nelle prossime ore. Prato, il giorno dopo l'incendio in fabbrica, le 7 vittime, sono oltre 4.000 le aziende cinesi della zona, gran parte nel tessile. Erano alla deriva da 48 ore, la guardia costiera salva 121 migranti, tra cui donne e bambini, da un barcone al largo delle coste calabresi. Qualità della vita, nella classifica del Sole 24 ore, Trento scavalca Bolzano e si piazza prima ultima Napoli, male anche Reggio Calabria e Palermo. Il momento dell'inchiesta di Daniele Biacchessi questa settimana, o meglio questo lunedì, sulla legge elettorale. Lo so, non è uno degli argomenti che interessa più gli italiani, ma la nuova legge elettorale diventa la chimera di cui tutti in Parlamento parlano e discutono, ma nessuno riesce mai a definire l'applicazione pratica. E ciò accade per vari motivi. I partiti non riescono a trovare un accordo, i tecnici non trovano un modello innovativo capace di mettere in pensione il cosiddetto porcellum e offrire una forte stabilità politica al Paese. Eppure i sistemi già ci sarebbero e sono perfettamente funzionanti, ad esempio il maggioritario a doppio turno, il meccanismo collaudato con cui si eleggono i sindaci e i presidenti di provincia e la cosiddetta legge Tattarella, quella che regola l'elezione dei presidenti delle regioni. Se guardate bene, con il doppio turno i sindaci restano in carica per tutto il loro mandato e solo una crisi politica di maggioranza, oppure, aggiungiamo noi, un'inchiesta giudiziaria può modificare il senso della storia. La stessa cosa accade per i presidenti delle regioni, eletti con un sistema diverso ma pur sempre efficace. I temi spinosi restano il premio di maggioranza, previsto dal porcellum, che risulta troppo alto, quindi ingiusto, e il proporzionale, che contribuisce a formare il numero spropositato di partiti, movimenti e partitini, visto già nelle ultime elezioni politiche di febbraio. Veniamo ai dati. 8 mesi dopo le elezioni politiche non è cambiato niente, secondo il sondaggio odierno di Demos. Dal punto di vista degli orientamenti di voto permane un equilibrio instabile tra tre grandi minoranze. Centrosinistra e centrodestra rimangono appaiati e si piazzano poco oltre il 30%. Il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo è sopra il 21% e in lieve crescita. Il nuovo centrodestra sembra assestarsi intorno al 5%. Che cosa vuol vuol dire? Vuol dire che se si votasse oggi con il Porcellum non ci sarebbe alcuna maggioranza, perché è impossibile una riedizione delle larghe intese e altamente improbabile un accordo tra il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle. Se la politica non ha idee, neppure grandi alibi, ci potrebbe pensare un soggetto terzo e sopra le parti. Infatti domani si apre l'udienza pubblica della Consulta, del cosiddetto processo al Porcellum. Ma in un paese normale le grandi riforme, specie quelle elettorali, si dovrebbero fare con il consenso di tutti, con il consenso delle forze politiche, con il via libera di maggioranza e anche con il concorso dell'opposizione. Ma l'Italia, un paese normale, proprio non è. Così Daniele Biacchessi, adesso sentiamo cosa dice la classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore. È Trento la provincia più vivibile d'Italia. Il risultato scaturisce dalla tradizionale ricerca del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. La provincia autonoma aveva già occupato il podio più alto nel 2007 e ora sostituisce la collega Bolzano, prima nel 2012 e adesso comunque al secondo posto. All'ultimo gradino si colloca invece Napoli, già maglia nera nel 2010. 6 sono le aree indagate e 36 gli indicatori utilizzati per arrivare alla pagella finale. Si va dai capitoli legati al reddito e al lavoro a quelli sui servizi, la popolazione, la sicurezza e il tempo libero. Se il capoluogo campano scende all'ultima posizione, peggiorando in quasi tutte le aree della ricerca, Trento sale sul gradino più alto senza grandi exploit. Il divario fra le due protagoniste è più forte nei parametri relativi a impresa e occupazione. Ad esempio, il tasso di donne occupate a Trento sfiora il 60%, a Napoli non arriva al 25%. Distanti le performance su export, indice di sportività, volontari, presenza di stranieri regolari. Quanto al PIL pro capite, l'una è quasi al doppio dell'altra, 28.000 euro rispetto a 15.000. Ma altre indicazioni emergono dalla ricerca. Si conferma la forbice nord-sud, molti indici sono in peggioramento come la presenza di giovani, i consumi o i reati. Mentre mostrano una tenuta complessiva le realtà di maggiori dimensioni, più di altre attrezzate a compensare la pressione della crisi. Le grandi province fanno infatti qualche passo avanti. Bologna sale al terzo posto, Firenze al settimo, Milano al decimo e Roma al ventesimo. Rossella Cadeo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La viabilità, ci ritroviamo tra un attimo con Platero. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero con America 24. America, America, God shed his grace on thee. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. Beh, c'è una notizia importante, devo dire, che arriva da Washington per questo inizio di dicembre. Nel fine settimana è ripartito il programma software per la gestione del nuovo piano sanitario di Obama, un sito che attiva un vero e proprio mercato sanitario dove è possibile confrontare il costo e i servizi impliciti in una polizza e scegliere quella migliore. Come ricorderete, l'intera operazione di lancio fu un disastro, perché dopo 2 anni di lavoro, dopo una grande pubblicizzazione e soprattutto dopo un investimento di 630 milioni di dollari, il programma non funzionava. Well, look, you never get a second chance to make a first impression, and the first impression here was terrible. È Tom Cole, deputato repubblicano dell'Oklahoma, che ha parlato in televisione. La sua dichiarazione, come si dice, non c'è una seconda occasione per fare una prima impressione, e qui la prima impressione è stata terribile. Credo che questo si tradurrà in un disastro politico per il presidente e l'amministrazione. Beh, in effetti il disastro c'è stato, ma ora si ricomincia dai quartieri generali. Il messaggio ieri a Washington è stato dettagliato, i quartieri generali dell'amministrazione che stanno sovraintendendo questa operazione di riorganizzazione, e hanno detto che invece di 8 secondi per caricare una pagina ce ne vorrà uno soltanto. La percentuale del 6% di coloro che non riuscivano ad avere accesso a pagine successive è scesa allo 0,75%. C'è ancora qualche problemuccio, hanno ammesso, e ci vorrà qualche giorno, forse ci vorranno 2 settimane per capire se le cose vanno davvero meglio. Ma che l'America, la patria di Silicon Valley, dell'era di internet, potesse fallire su un sito che doveva gestire il programma chiave della presidenza Obama, la riforma sanitaria. Beh, ovviamente questo ha dell'incredibile, soprattutto pensando che sono stati spesi 630 milioni di dollari, squadre di programmatori esterni, 2 anni di lavoro. Ecco, non sono riusciti a fare quel che Google e altre aziende private fanno in pochi mesi. Questo ha generato un danno d'immagine anche per un altro grande obiettivo di Obama, dimostrare cioè che lo Stato funziona ed è in grado di gestire operazioni complesse. Guarda caso, l'incarico di rimettere tutto a posto è stato affidato a Jeffrey Zient, un consulente multimilionario che gestiva nella sua vita privata situazioni di crisi e che diventerà tra l'altro il nuovo capo del team economico di Obama. Con lui, per risolvere la situazione, è stato chiamato Michael Dickerson, che è un ex ingegnere di Google. David Plouffe, lo ricorderete, è stato uno dei grandi maghi che ha riportato Obama alla vittoria elettorale nel 2012, e lui cerca di essere positivo, le cose funzioneranno, non lavora più con l'amministrazione, ma ovviamente è legatissimo a Obama. C'è grande interesse, dice, tra gli americani per questi nuovi piani sanitari. Per la fine di marzo avremo 6-7 milioni di persone registrate. Ecco, è possibile in effetti che le cose si rimettano in moto, ma la percezione di un errore catastrofico e di una debolezza americana, insomma, ora con l'incapacità di far funzionare un computer, 2 mesi fa con la chiusura del governo e poi con la minaccia di fallimento addirittura degli Stati Uniti d'America, sono manifestazioni di debolezza che vengono chiaramente sentite all'estero. La sensazione generalizzata a Washington, sia al Congresso che fra esperti di politica estera, è che le potenze straniere queste cose le colgono, dalla Russia alla Cina, ma anche paesi nemici, dall'Iran alla Siria alla Corea del Nord, approfittano della debolezza della Casa Bianca per incassare quanto più possibile nei vari contenziosi aperti nei vari teatri globali per migliorare la loro posizione strategica. L'ultimo passo indietro degli Stati Uniti è stato davanti alle richieste cinesi, cioè gli Stati Uniti hanno detto alle loro linee aeree civili di rispettare la direttiva di Pechino, cioè di registrarsi, di notificare quali erano i programmi di volo sopra un arcipelago che è conteso fra Pechino e Tokyo, ma che è attualmente di Tokyo. Quindi la Cina come può pensare di dare degli ordini sopra lo spazio aereo di isolette controllate da un altro paese? E dunque, insomma, la situazione resta un po' di confusione. I timori giapponesi sulla decisione americana di fare un passo indietro con la Cina non sono infondati sulla carta, perché l'America di Obama ha inviato in più occasioni segnali quantomeno ambigui ai propri alleati storici, recentemente a Israele e all'Arabia Saudita, quando ha siglato un accordo con l'Iran, un accordo che ha come suo punto centrale la rinuncia americana alla pregiudiziale che richiedeva la chiusura degli acceleratori per l'arricchimento dell'uranio in cambio dell'eliminazione anche parziale delle sanzioni. Ma Obama ha perso una partita di leadership in un paio di confronti diretti con Vladimir Putin, la Russia dilaga, c'è Mosca dietro la rinuncia dell'Ucraina all'adesione all'Unione Europea. E mesi fa, ai margini del vertice di San Pietroburgo, Putin aveva ottenuto il consenso di Obama per un accordo con la Siria che prevede la distruzione dell'arsenale chimico di Damasco, ma di fatto da più tempo al regime di Assad, e da allora la linea americana Assad se ne deve andare non la si ascolta più. When the Asia Pacific or the Indo-Pacific region gets more and more prosperous. Shinzo Abe, il primo ministro giapponese, promette che lui non farà marcia indietro, difenderà fino all'ultimo le isolette. Vi dicevo, c'è timore che la Cina possa addirittura procedere con un'escalation militare e conquistare queste isole, che sono peraltro disabitate e senza truppe giapponesi. Il vicepresidente Biden sarà a Tokyo, Seoul e Pechino nei prossimi giorni. La prudenza americana è dunque ponderata, ma su 2 fronti chiave, uno estero sul teatro asiatico e uno interno con il cervellone che dovrebbe gestire il programma sanitario di Obama, si apre per la Casa Bianca una settimana chiave. Vi terremo informati. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioBladero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il 5 dicembre Sotheby's metterà all'asta una prima bozza della canzone di Bruce Springsteen, Born to Run. Si dice che potrebbe vendere fra i 70 e i 100 mila dollari. E dunque a Bruce Springsteen dedichiamo la canzone Born to Run. Da New York è tutto, Simone ti ripasso la linea, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24. È tutto, ci sentiamo tra un attimo col giornale radio.